Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo ottavo. Consigli molto utili sulla meditazione. Uscendo dalla meditazione, Filotea, devi portare con te soprattutto i propositi e le decisioni prese, per metterli in pratica immediatamente, nella giornata. È questo il frutto irrinunciabile della meditazione. Se manca, non solo la meditazione è inutile, ma spesso anche dannosa, perché le virtù meditate, ma non praticate, gonfiano lo spirito di presunzione. Finiamo per credere di essere quello che ci eravamo proposto di essere. Noi potremo diventare come ci siamo proposti di essere solo quando i propositi saranno pieni di vita e solidi, non quando sono fiacchi, inconsistenti e quindi destinati a non venire attuati. Occorre, con ogni mezzo, fare sforzi per metterli in atto, approfittando di tutte le occasioni, sia piccole che grandi. Per esempio, se ho preso la risoluzione di conquistare con la dolcezza il cuore di coloro che mi offendono, cercherò, nel corso della giornata, di incontrarli per salutarli amabilmente. E se non mi sarà dato di incontrarli, perlomeno parlerò bene di loro e pregherò Dio per loro. Uscendo dall'orazione che ha impegnato il cuore, devi fare attenzione a non provocargli scosse. Rischieresti di rovesciare il balsamo raccolto con l'orazione. Intendo dire che, possibilmente, devi rimanere un po' in silenzio, riportare per gradi il tuo cuore dall'orazione agli affari, conservando il più a lungo possibile i sentimenti e gli affetti fioriti in te. Un uomo che ha ricevuto in un bel vaso di porcellana un liquore di gran pregio da portare a casa, cammina con attenzione, non si volta di lato, guarda solo davanti, per paura di inciampare in un sasso o mettere un piede in fallo, e tiene contemporaneamente d'occhio il vaso per non rovesciarlo. Tu devi fare la stessa cosa uscendo dalla meditazione. Non distrarti di colpo, ma guarda solo davanti a te. Ossia, se devi incontrare qualcuno e prestargli attenzione, fallo pure, adattati alla necessità. Ma senza perdere di vista il tuo cuore, perché il liquore prezioso dell'orazione si perda il meno possibile. Devi abituarti a passare dall'orazione a qualsiasi attività e occupazione che comporta la tua professione, anche quando può sembrare molto distante dagli affetti avuti nell'orazione. Voglio dire che un avvocato deve saper passare dall'orazione alla difesa della causa, un commerciante agli affari, una donna sposata ai doveri del suo matrimonio, della casa. Con dolcezza e serenità, senza mettersi in angustia. Infatti, essendo entrambi secondo la volontà di Dio, bisogna passare dall'una agli altri in umiltà e devozione. Qualche volta ti potrà capitare di sentirti trascinare dalla commozione, immediatamente dopo la preparazione. In tal caso, Filotea, allenta le briglie. Non pretendere di seguire il metodo che ti ho indicato. È vero che ordinariamente le considerazioni devono precedere gli affetti e i propositi, ma se lo Spirito Santo ti concede gli affetti prima delle considerazioni, non devi insistere a voler correre dietro alle considerazioni, visto che hanno il solo scopo di muovere gli affetti. In breve, in qualunque momento ti si presentano gli affetti, devi accoglierli, far loro posto. Poco importa se prima o dopo le considerazioni. Ho messo gli affetti dopo tutte le considerazioni solo per distinguere i vari momenti dell'orazione. È la regola generale. Ma mai devi comprimere gli affetti. Lasciali sgorgare appena manifestano la presenza. Questo lo dico per tutti gli affetti, compreso il ringraziamento, l'offerta, la preghiera, che si possono fare in ogni momento durante le considerazioni. Non bisogna frenarli, proprio come ti ho detto per gli affetti, anche se dopo, a conclusione della meditazione, devono essere ripetuti nuovamente. Quanto invece ai propositi, devi formarli solo alla fine della meditazione, dopo gli affetti, perché ricordandoci situazioni familiari dettagliate, rischierebbero di farci distrarre se li facessimo insieme agli affetti. Tra gli affetti e i propositi è bene fare ricorso al colloquio, parlare un po' con Nostro Signore, con gli angeli, con i personaggi del mistero, con i santi, anche con se stessi, con i peccatori e con le creature insensibili, come fa Davide nei Salmi e gli altri santi nel corso delle loro meditazioni, delle loro orazioni. Capitolo 9. Le aridità che ci affliggono nelle meditazioni. Se ti capita, Filotea, di non provare alcuna attrazione né alcuna consolazione nella meditazione, ti prego di non agitarti, ma apri la porta alle preghiere vocali. Lamentati di te stessa con Nostro Signore. Confessa la tua indegnità, pregalo di aiutarti. Bacia la sua immagine, rivolgigli le parole di Giacobbe. Io non ti lascio, Signore, finché tu non mi abbia benedetto. Oppure quelle della Cananea. Sì, Signore, io sono un cane, ma i cani mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. Altre volte prendi un libro, leggilo con attenzione fino a che il tuo spirito si riprenda pienamente. Qualche volta sprona il cuore con atti e movimenti di devozione esteriore. Prostrati per terra, mettiti le mani in croce sul petto, abbraccia il crocifisso. Si capisce questo se ti trovi in luogo appartato. E se dopo tutto ciò sei come prima, per quanto grande sia la tua aridità, non avvilirti, ma rimani con devoto contegno davanti a Dio. Quanti cortigiani, nel corso dell'anno, fanno 100 volte l'anticamera del principe senza speranza di potergli parlare, ma solo per essere visti da lui e compiere il loro dovere? Così, Filotea, noi dobbiamo recarci all'orazione semplicemente per compiere il nostro dovere e dimostrare la nostra fedeltà. Che se poi piace alla Divina Maestà di rivolgerci la parola e fermarsi con noi con le sue sante aspirazioni e consolazioni interiori, questo sarà per noi un grande onore, motivo di un piacere delizioso. Ma se non ci fa questa grazia, non rivolgendoci la parola, come se non ci vedesse, come se non fossimo alla sua presenza, non per questo dobbiamo andarcene, anzi al contrario, dobbiamo rimanere lì, davanti alla somma bontà, con un contegno devoto, sereno. Gradirà molto la nostra pazienza, noterà la nostra fedeltà, la nostra perseveranza. E quando ritorneremo davanti a Lui, ci favorirà. Si fermerà con noi con le sue consolazioni. facendoci assaporare tutto il fascino dell'orazione. Ma anche se non dovesse farlo, accontentiamoci, Filotea. È già un grandissimo onore trovarci presso di lui, al suo cospetto. Capitolo decimo. Esercizio del mattino. Oltre a questa orazione mentale strutturata e completa, oltre alle preghiere vocali da dire durante il giorno, ci sono altre cinque forme di preghiere brevi e che sono come prolungamenti, fioriture della grande orazione. La prima è quella del mattino, che è una preparazione generale alla giornata. Ecco come devi farla. Primo, ringrazia e adora Dio dal profondo di te stessa per la grazia che ti ha fatto nel conservarti la notte passata. E se in essa tu avessi peccato, chiedigli perdono. Secondo, tu sai bene che il giorno presente ti è concesso perché tu possa acquistare quello futuro, nell'eternità. A questo fine farai un fermo proposito di spendere bene la giornata. Terzo, cerca di prevedere gli affari, gli incontri, le situazioni in cui ti troverai nel corso della giornata, per servire Dio, e quali tentazioni potranno sopraggiungere per offenderlo. A causa della collera, della vanità, o di qualche altra mancanza di controllo. E con un fermo proposito, preparati ad impiegare bene i mezzi che ti saranno offerti di servire Dio e progredire nella devozione. Per contro, preparati ad evitare o combattere e vincere tutto ciò che potresti incontrare e che sia contro la tua salvezza e la gloria di Dio. Non basta prendere questa risoluzione, occorre predisporre i mezzi per attuarla. Per esempio, se prevedo di dover trattare un affare con una persona passionale pronta alla collera, non solo devo fare il proposito di non reagire alle sue sfuriate, ma devo preparare delle frasi gentili per prevenirla, o prevedere la presenza di una persona capace di moderarla. Se prevedo la visita ad un malato, mi organizzerò per l'ora, le parole di consolazione da dirgli, gli aiuti da portare, e così per gli altri casi. Quarto, dopo di ciò, umiliati davanti a Dio. Riconosci che da sola nulla potresti fare di quanto ti sei proposta, sia per fuggire il male che per operare il bene. È come se tu avessi il cuore in mano. Offrilo con tutti i propositi alla Maestà Divina. Supplicala di prenderti sotto la sua protezione per portare a compimento le tue iniziative. E per questo serviti delle seguenti parole o di simili. Signore, eccoti questo povero e miserabile cuore, che per tua bontà ha avuto buoni affetti. Ma è troppo debole, insignificante, per riuscire a fare il bene che vorrebbe, se tu non lo sostieni con la tua celeste benedizione. Io te la chiedo, Padre buono, per i meriti della passione di tuo figlio, al quale io consacro questa giornata e tutta la vita. Poi invoca la Madonna, il tuo angelo e i santi perché ti siano vicini. Ma tutte queste operazioni devono essere fatte brevemente, con vivacità, possibilmente prima di uscire dalla camera, affinché in forza di questo esercizio tutto quello che farai nel corso della giornata sia coperto dalla benedizione di Dio. Ti prego, Filotea, non trascurarlo mai. Capitolo undicesimo. L'esercizio della sera e l'esame di coscienza. Prima del pranzo materiale hai fatto la meditazione, che è come un pranzo spirituale. Allo stesso modo, prima di cena, devi fare una piccola cena devota e spirituale, o almeno uno spuntino. Trova un po' di tempo prima di cena, inginocchiati davanti a Dio. Raccogli il tuo spirito vicino a Gesù Cristo crocifisso, che ti rappresenterai per mezzo di una riflessione semplice, come un'occhiata interiore. Ravviva nel tuo cuore l'ardore della meditazione del mattino, per mezzo di una dozzina di vivaci aspirazioni, di atti di umiltà, di slanci pieni di amore verso il divino Salvatore della tua anima. Se lo preferisci, potrai anche riprendere i punti più salienti della meditazione del mattino, o scuoterti con qualche altro pensiero a tuo piacere. Quanto all'esame di coscienza che ognuno deve fare prima di coricarsi, tutti sanno come deve essere fatto. Primo, ringrazia Dio che ti ha conservato nel corso della giornata appena terminata. Secondo, esamina il comportamento che hai tenuto nel corso della giornata. Per facilitarti il compito, rifletti dove, con chi e come sei stato impegnato. Terzo, se trovi qualche cosa di fatto bene, ringrazia Dio. Se al contrario hai fatto qualcosa di male, in pensieri, in parole, in opere, chiedi perdono a Dio, col proposito di confessartene alla prima occasione e di correggerti seriamente. Quarto, affida il tuo corpo, la tua anima, la Chiesa, i parenti, gli amici, alla Divina Provvidenza. Prega la Madonna, il buon angelo e i santi di vegliare su di noi e per noi. E con la benedizione di Dio, va a prenderti quel riposo che Dio ha voluto che ci fosse necessario. Questo esercizio non deve mai essere tralasciato, come del resto quello del mattino. Con quello del mattino spalanchi la tua finestra al sole di giustizia. Con quello della sera la sbarri alle tenebre dell'inferno. Capitolo dodicesimo. Il raccoglimento spirituale. Cara Filotea, ti auguro tanta buona volontà per seguire di cuore il mio consiglio. In questa parte ti porto a conoscenza di uno dei modi più sicuri per progredire spiritualmente. Durante il giorno, mantieniti alla presenza di Dio, con uno dei quattro mezzi che ti ho indicato. Dà uno sguardo all'azione di Dio e alla tua. Scoprirai che Dio ha sempre gli occhi rivolti verso di te e ti guarda con infinito amore. Allora tu dirai: Dio, perché anch'io non ti guardo senza stancarmi come tu guardi me? Perché tu pensi tanto a me e io così poco a te? Dove ci troviamo, anima mia? Il nostro posto è in Dio, ma dove ci troviamo? Allo stesso modo che gli uccelli hanno i nidi sugli alberi per potercisi rifugiare quando ne sentono il bisogno, e i cervi hanno i loro cespugli, i loro rifugi, dove si raccolgono e si mettono al riparo, godendosi il fresco o l'ombra in estate. Così, Filotea, il nostro cuore ogni giorno deve cercare e trovare un posto per potersi all'occorrenza raccogliere. O sul Calvario, o nelle piaghe di Nostro Signore, o in qualche luogo vicino. Potrà quivi sostare e ritemprarsi, pur tra le occupazioni esteriori, e difendersi, se necessario, come in una fortezza, dalle tentazioni. Beata l'anima che in tutta sincerità potrà dire al Signore: Tu sei il mio rifugio, il mio bastone di sicurezza, il tetto contro la pioggia l'ombra che mi difende dal caldo. Ricordati sempre, Filotea, di raccoglierti spesso nella solitudine del tuo cuore, mentre materialmente ti trovi coinvolta nelle conversazioni o negli affari. Quella solitudine mentale non deve in alcun modo essere impedita da quelli che ti stanno intorno. Infatti, non si trovano intorno al tuo cuore, ma al tuo corpo. Il tuo cuore può rimanere in solitudine, in compagnia di Dio. Questo esercizio lo faceva anche Davide, in mezzo a tutte le occupazioni, come ci risulta da un'infinità di passi dei Salmi, come per esempio quando dice: «Signore, io sono sempre con te. Vedo il mio Dio costantemente davanti a me. Ho alzato gli occhi verso di te, Dio mio, che abiti in cielo. I miei occhi sono sempre in Dio». Abitualmente le conversazioni non sono così impegnative che non si possa ogni tanto sottrarre il cuore per condurlo in quella solitudine divina. I genitori di Santa Caterina da Siena le avevano tolto ogni comodità di luogo e di tempo per pregare e meditare. Nostro Signore le ispirò di farsi un piccolo oratorio spirituale nella propria anima, nel quale si raccoglieva mentalmente, e così, pur in mezzo a tutte le occupazioni esteriori, poteva consacrarsi a quella santa solitudine del cuore. In seguito, quando il mondo l'assillava, non ne soffriva alcun danno, perché, come essa diceva, si chiudeva nella sua cameretta interiore, nella quale restava in dolce compagnia con il suo celeste sposo. Per questo consigliava ai suoi figli spirituali di procurarsi una camera nel proprio cuore per potervi sostare. Raccogli dunque qualche volta il tuo spirito nel tuo cuore e lì, isolata dagli altri, potrai parlare con Dio cuore a cuore della tua anima e con Davide dirai: «Ho vegliato e sono stato simile al pellicano nella solitudine. Come un uccello notturno o un gufo tra le macerie, o come il passero solitario sul tetto». Queste parole, oltre al senso letterale, prese nel senso mistico, ci indicano tre luoghi di ritiro, come tre eremi, nei quali possiamo trovare la solitudine, seguendo l'esempio del Salvatore che su Monte Calvario è come il pellicano nel deserto, che con il proprio sangue ridà la vita ai piccoli morti. Nella nascita in una stalla abbandonata, assomiglia al gufo tra le rovine che si lamenta e piange le nostre mancanze, i nostri peccati. Nel giorno dell'ascensione, è come il passero che si isola e sale al cielo che è il tetto del mondo. In questi tre luoghi, anche noi possiamo raccoglierci, pur essendo circondati dal frastuono delle nostre occupazioni. Al beato conte di Arian, in Provenza, che si trovava lontano da casa da molto tempo, la sua devota e casta Delfina mandò un messo per chiedere notizie della salute. Lui rispose: «Sto bene, mia cara. Se vuoi vedermi, cercami nella piaga del costato del dolce Gesù, perché è là che abito, e là mi potrai trovare. Invano mi cercheresti altrove». Quello sì che era un cavaliere cristiano. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria.